Lo spinellati fotte il cervello in vina, distrugge l'intestina con la cresta. Niente ne sa, proibizione, la vita è proibizione, ma chi lo impone, ma chi lo impone? Wow! Usi i costumi, sono prigioni, fotti il banale, scontato recitare, sorteggiando una grappa di commercio clandestino. Grappa 80 gradi, e la maraia la produco nel giardino. Non si fa questo, non si fa quello, se no si prende il vizio, non si può distillare vino. Ma ti permetto di annientare il clandestino, il sistema compone regole ipocrite. Del diverso sono amico, del vino sono fratello. Preferisco bere che stare all'occhiello. Preferisco bere che stare all'occhiello. Il divieto a volte corrompe l'ideale. Un anarchico appare un animale. Usi i costumi, sono prigioni, fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Fotti il banale, scontato recitare. Sono un anarchico, non sono un animale. Sono un anarchico, non sono un animale. Sono un anarchico, non sono un animale. Sono un anarchico, non sono un animale.